Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come annunciato già ieri, avremo il nostro ospite, l'economista Luigi Zingales, che domenica su Sole 24 Ore ha lanciato la proposta di un dibattito serio, e uso il termine serio perché la politica spesso questo aggettivo non lo usa, sull'euro, ossia capire vantaggi e svantaggi in un'ipotesi di una rimessa in discussione dell'euro, al di là degli slogan, al di là delle ricette taumaturgiche, quindi miracolose, come se l'uscita dall'euro potesse risolvere tutti i problemi di questo paese. Ma è un dibattito anche tra economisti, l'ha lanciato sulle pagine Sole 24 Ore, oggi ce lo ricorderà, per capire anche... Ieri faccio notare che l'ex capo economista del Ministero del Tesoro, che attualmente insegna a Londra, alla London School of Economics, e mi riferisco a Lorenzo Codogno, ha detto: beh, benvenga un dibattito anche per sfatare i falsi miti tutti i vantaggi di un'uscita dall'euro, in modo da non lasciare il dibattito solo alla politica, a favore o contro, in base, diciamo, all'andamento elettorale. Parleremo poi invece, per quello che riguarda la cronaca, anche di due vicende che riguardano i rapporti Italia-Francia. Una è più in discesa, mi riferisco all'operazione di Fincantieri sul colosso della cantieristica francese Estex France con i cantieri di Saint-Nazaire. Oggi infatti l'amministratore delegato di Fincantieri era a Saint-Nazaire per incontrare i lavoratori e i sindacati, che dovranno esprimere un parere, comunque non vincolante, sull'operazione che porterà Fincantieri ad avere il controllo della società, anche se avrà il 48%, quindi sarà sotto il 50% come chiesto dal governo francese. Il governo francese comunque manterrà la minoranza di blocco, il 33%, e invece poi la maggioranza, diciamo, italiana sarà garantita dalla Fondazione Cassa Risparmio di Trieste, che acquisterà tra il 6% e il 7%. L'altra operazione invece molto più in salita, e mi riferisco a Vivendi e alla partecipazione di Vivendi sia in Telecom, dove è l'azionista di riferimento di maggioranza relativa con il 24%, sia in Mediaset, perché dopo l'operazione su Mediaset Vivendi ha il 29,9% dei diritti di voto, quindi 0,1 sotto la soglia dell'OPA, contro il 39,7% di Fininvest. Perché dico operazione tutta ancora in salita? Perché per quello che ha detto, che ha deciso l'AGCOM, l'AGCOM ha accertato l'influenza dominante di Vivendi in Telecom e in Mediaset, e con una prima decisione dai tempi della legge Gasparri sui tetti di controllo, ha detto che Vivendi ha un anno di tempo per rimuovere la posizione vietata dopo l'esposto di Mediaset sulla scalata dei francesi al Biscione e il loro controllo di fatto su Telecom. Deve scendere sostanzialmente o in Mediaset o in Telecom. Hanno un anno di tempo. Vivendi ha detto che si riserva di ricorrere al TAR dell'Unione Europea sulla sentenza della GCOM italiana. Valuteremo le implicazioni sulla decisione della GCOM. Venendo alla borsa, visto che stiamo parlando di Vivendi e di Telecom, faccio notare che oggi a Piazza Affari, sul fronte borsistico, abbiamo un dato positivo su tutte le borse, ma in particolare su Milano più 1,75%, Parigi più 0,30%, Francoforte più 0,15%, e ancora Dow Jones meno 0,1%, Londra meno 0,34%, molto forti oggi soprattutto le banche: UniCredit più 5%, BPerBank più 4,80%, Intesa più 4,20%, UBI più 3,80%, Banco BPM più 3,70%, Mediobanca più 2,80%. Forte anche Fiat Chrysler, più 3,77%, Azimut più 2,70%, Unipol più 2,5%, Banca Generali, che domani va in assemblea, più 2,22%, Buzzi Unicem più 2%. Fronte opposto è Ferragamo meno 2% e Italgas meno 0,30, Mediaset positiva ma poco mossa, così come Telecom più 0,60, Mediaset più 0,70, Telecom Italia 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente altre notizie in breve e poi iniziamo con il tema dibattito serio e costruttivo, questa è la richiesta di Zingales sull'euro, euro sì o euro no. E oggi c'è stata anche l'audizione del ministro Padoan sul DEF, l'ascolteremo dopo, così come c'è anche una dichiarazione interessante che ha preso il nostro Mario Platero, ospite, aveva ospite ad America 24 l'ex Mr. Spending Review, ossia l'attuale direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale Carlo Cottarelli, il quale ha detto tra l'altro: con il debito alto l'Italia resterà schiava dei mercati. Occorre arrivare a un pareggio di bilancio. Comunque, per quello che riguarda le altre notizie in breve, faccio notare che è uno dei motivi per cui anche le borse e le banche in borsa si muovono meglio dei giorni scorsi. C'è un report intanto positivo di UBS sul settore e poi c'è una notizia che riguarda l'inflazione dell'area euro. A marzo è tornata a scendere all'1,5%, a febbraio ha fatto il 2% e all'1,4% in Italia. Perché questo è importante? Perché finché la Banca Centrale Europea non vedrà un'inflazione stabilmente intorno al 2%, non cambierà la sua prospettiva, quindi tassi a zero, e avrà gioco facile nel continuare il QE, il quantitative easing, l'acquisto di titoli emessi dai vari paesi, tra cui l'Italia, titoli di debito. E infatti l'inflazione è tornata all'1,5%. Faccio notare che appunto un anno fa era inchiodata allo zero, quindi c'è stato un rialzo. Hanno pesato soprattutto i prezzi dei carburanti, calati quelli delle telecomunicazioni e dell'abbigliamento, un leggero rialzo quelli dei generi alimentari. E ancora, per quello che riguarda invece, qualcuno mi chiede la vicenda Autostrade Abertis. Allora, per quello che riguarda, diciamo, la vicenda Autostrade Abertis, abbiamo dedicato i 100 secondi a questo. Praticamente oggi cosa si è saputo rispetto a ieri? Che i vertici di Atlantia, quindi ex Autostrade per Italia, e Abertis hanno tenuto un incontro nel corso del quale Atlantia ha condiviso le sue idee preliminari sulla struttura di una possibile operazione fra i due gruppi. Già ieri si era capito che l'operazione non solo era stata studiata, ma era anche, diciamo, in avanzato stato di studio, diciamo così. Tra le possibili alternative, si legge in un comunicato diffuso da Abertis nella notte, c'è anche quella di strutturare l'operazione come un'offerta pubblica per le azioni di Abertis, con diverse opzioni, quindi in contanti, in azioni o una combinazione tra le due. Non sono stati fissati né prezzi né altre condizioni della transazione. Questa è la nota che aveva richiesto la Consob spagnola ad Abertis. Abertis infatti è il colosso autostradale spagnolo. Non c'è ancora specifica proposta o piano di azione e non siamo al corrente del fatto che in futuro ci sarà una concretizzazione di un'eventuale transazione su questo. Dicevo, i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS come sempre, si concentrano proprio sull'operazione Abertis Autostrade per Italia, o meglio Atlantia, a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Alessandro Platerotti. Accade di rado, ma quanto accade, un po' di riflettori andrebbero accesi. La notizia di una possibile acquisizione del gruppo spagnolo Abertis da parte di Atlantia, la holding infrastrutturale della famiglia Benetton, è passata quasi sotto silenzio in Italia, come se operazioni di questo tipo, che hanno davvero un valore globale, fossero così all'ordine del giorno. In realtà, purtroppo, ci siamo più abituati a vendere che a comprare, e forse anche per questo gli unici ad essersi accorti veramente di quanto sta accadendo sembrano essere i mercati finanziari. Ieri, dopo la notizia del contatti, dei primi contatti fra gli italiani e gli spagnoli, la Consob spagnola aveva sospeso le contrattazioni sui titoli di Abertis, oggi riprese con una sorpresa. Mentre il titolo della società spagnola è caduto, quello della società italiana è salito. Che cosa vuol dire tutto ciò? Normalmente quando il titolo della società che è candidata a comprare sale è perché o il mercato non crede che l'operazione avvenga o altrimenti ha capito che potrebbe essere soltanto il primo colpo di cannone di quello che è un'espansione possibile e prevedibile delle aziende italiane. In gioco ci sono grandi concessioni autostradali, lavori, tutte opere infrastrutturali che in questo momento rappresentano che cosa? Il motore dello sviluppo e della ripresa in Europa, visto che su altri fronti, quelli dei consumi, c'è ben poco da dire. Insomma, un pochino di attenzione in più a certe operazioni, soprattutto viste le altre operazioni che sono avvenute fino adesso, cioè vendite da parte di aziende italiane ed aziende straniere. Se la borsa ha detto la sua, sarebbe ben interessante sapere che cosa pensa il paese, visto che si tratta di una delle ultime grandi aziende infrastrutturali italiane, un player globale che nel corso degli anni ha dovuto, suo malgrado, ridurre la dipendenza dal mercato interno, visto la crisi che continua ad attanagliare la nostra economia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, euro sì o euro no, un dibattito serio e costruttivo, ecco le regole. Questo articolo a firma dell'economista Luigi Zingales, apparso sul Sole 24 Ore domenica, quindi lo scorso 16 aprile, che adesso la sintetizzo in maniera molto brutale, trae lo spunto dal fatto che la permanenza dell'euro, abbiamo le elezioni, ieri raccontavamo del poker elettorale praticamente, Francia, adesso anche la Gran Bretagna, che non è nell'euro, però andrà a votare l'8 giugno, poi Germania e poi tra novembre e febbraio anche l'Italia. E sappiamo benissimo che il tema dell'euro, in realtà a mio avviso in maniera impropria, perché il tema sarebbe l'Europa, questa gestione dell'Europa, ma è diventato il tema dell'euro. E cioè la malattia si risolve cambiando il termometro, come diciamo alcune volte. Però non si può, e questo è l'appello di Zingales, se ho ben capito, lasciare il tema dell'euro solo al dibattito politico sotto elezioni, che sappiamo gode da qualunque schieramento di tanta demagogia e poche soluzioni concrete, soprattutto poca valutazione degli effetti secondari e degli effetti negativi. Dicevo, non si può lasciare il dibattito sull'euro solo al dibattito politico. La Le Pen, faccio notare che oggi c'è un appello di 25 premi Nobel all'economia contro il programma della Le Pen. Stiglitz e Tirol sono a favore dell'euro, anche Paul Krugman si era distaccato, perché chi è contro l'euro cita sempre Stiglitz e Krugman ha detto no, guardate che c'è una bella differenza tra la scelta di non aderire all'euro all'inizio o di uscire dall'euro una volta che sei entrato, che è la stessa posizione, per inciso, che ha avuto anche un soggetto, l'ex ministro dell'economia greco Varoufakis, che tutto si può dire tranne che sia un tifoso dell'euro, e anche lui ha detto attenzione, c'è una bella differenza tra dire che non avremmo dovuto entrare nell'euro e dire che adesso dovremmo uscire, ci vorrebbe un anno, vivremo una situazione che come se l'Argentina avesse annunciato 12 mesi prima la sua svalutazione, quindi avremo una tempesta in attesa della svalutazione, dovresti creare una nuova valuta e quant'altro. Però l'obiettivo appunto di Zingales, che saluto per averci raggiunto in collegamento da Chicago, dove insegna finanza alla Chicago Booth School of Business. Buonasera professore. Buonasera, come sta? Bene, grazie. Abbastanza bene, insomma, diciamo, non esageriamo. Però l'obiettivo è di dire non lasciamo, se ho ben capito, tutto il dibattito dell'euro alla politica e ad economisti che palesemente insomma, sono caldeggiati da alcuni partiti politici. Oggi contribuisce al suo appello anche sul Sole 24 Ore Franco De Benedetti, e così vengo subito all'obiezione, che dice attenzione sul metodo, la domanda da farsi non è la moneta unica conviene e poi quanto converrebbe non averla e infine quanto costerebbe abbandonarla, ma dovrebbe essere opposto, cioè quanto costerebbe abbandonarla, quanto converrebbe non averla e quanto conviene. Lo dico perché a me sembra, professor Zingales, che spesso nel dibattito politico non si parta mai dai costi, cioè viene sempre detto sostanzialmente lasciamo l'euro, confondendo l'euro con la gestione dell'euro da parte tedesca, da parte anche di Bruxelles in questi anni, lasciamo l'euro e questo comporterà un aumento del potere d'acquisto perché si tornerà come al mondo della lira, fermo essendo che secondo me quel mondo lì non c'è più, ma nessuno ha mai, parlo dei partiti, inutile girarci attorno, Lega e 5 Stelle da noi, che caldeggiano in qualche modo, soprattutto la Lega, l'uscita dall'euro, non c'è mai una stima dei costi, cioè i costi non esistono. Non sarebbe giusto allora partire dai costi? Ma guardi, i costi ci possono essere anche nella gestione di lungo periodo di un'autorità indipendente. Cioè non vedo perché i costi devono essere solo di transizione, ci sono anche dei costi di lungo periodo. Uscirà, spero domani, se non dopodomani, un articolo di John Cochrane che lui sostiene che ci sono dei costi ad avere una indipendenza monetaria anche nel lungo periodo. Quindi lungi da me dire iniziamo a guardare da quello perché lì ci sono solo i benefici. Secondo me la teoria economica è molto più in grado di dare una valutazione sull'indipendenza monetaria di lungo periodo. Sui costi oggettivamente di transizione sicuramente sono elevati, quanto elevati siano e come dipendono, come venga fatto eccetera, è un po' una guess per chiunque, cioè non si sa esattamente come possa avvenire. Quindi io sono voluto partire la cosa secondo me più importante, cioè la domanda è: nel lungo periodo noi siamo in situazione migliore o peggiore dentro all'euro? Questa secondo me mi sembra la domanda fondamentale, perché se noi diciamo che questa è la cosa giusta da farsi in lungo periodo, il dibattito si chiude. Se invece, cioè, le dice a quel punto uno dice vabbè, avremo dei costi, ma nel medio lungo periodo sarà un vantaggio, per cui esattamente, perché il lungo periodo è per sempre. Quindi se uno dice è difficile giustificare qualcosa che non funziona nel lungo periodo con qualcosa di breve periodo, cioè c'è un problema anche di prospettiva economica a lungo periodo verso una prospettiva politica. Cioè quando la Lega dice usciamo dall'euro, lo sta di nuovo parlando di un vantaggio di breve periodo, che è la svalutazione. Ma nel lungo periodo siamo messi meglio o siamo messi peggio? Questa è la domanda fondamentale, secondo me. Allora, poi arriviamo anche alla risposta che lei si è dato. Sì, qualcuno mi fa notare che era Keynes che diceva che nel lungo periodo saremo tutti morti, ma dai, insomma, al di là della battuta, è chiaro, in questo momento il dibattito è tutto sul beneficio o il danno immediato, se posso integrare il pensiero di Zingales, e invece uno dovrebbe dire: al di là del beneficio o il danno immediato, possiamo pensare cosa sarà poi di questo paese fra 5-10 anni se dovesse uscire dall'euro. Dopo le chiederò cosa ne pensa lei sui benefici o se soprattutto i benefici siano più alti o più bassi dei danni. Ma ha una domanda preliminare: non è che stiamo sbagliando l'obiettivo? Mi spiego, per carità, poi sull'euro si è scritto e detto di tutto, ma la crisi di consenso che sta attraversando dovunque questa Europa e poi l'area euro nel caso specifico, siamo sicuri che sia dovuta alla moneta unica con tutte le implicazioni che ha avuto, e quindi moneta uguale ma non sistema fiscale uguale, ma non politica europea congiunta, ma che sia proprio la moneta unica, o non sia stata la gestione della moneta unica e quindi Banca Centrale, Commissione Europea, che l'opinione pubblica individua nell'euro, ma in realtà si chiama Berlino, si chiama l'AIA, si chiama anche Vienna delle volte, e si chiama soprattutto pressioni sulla BCE e atteggiamento quasi da monopolista nei confronti della Commissione Europea in questi anni, cioè che l'austerità fine a se stessa, senza mai pensare agli investimenti pubblici, pensando che ogni investimento è un costo, non è mai una risorsa, abbia portato alla crisi di consenso che abbiamo e l'euro non c'entri nulla, cioè potevamo a finire nella stessa situazione anche se avessimo avuto diverse valute, ma una regia del genere? Ma guardi, se parliamo di moneta comune astratta, possiamo dire quello che vogliamo, questa moneta comune ha delle regole ben precise che tra l'altro noi abbiamo votato e recepito in Costituzione. Quindi è inutile che ci diamo colpa alla Germania dell'austerità, perché il fiscal compact l'abbiamo votato in Costituzione ed è parte di questo euro. Quindi, sì, che arriva dopo l'euro però, Zingari, si arriva nel 2011 con la crisi, l'euro già esisteva da 10 anni. Sì, esisteva però un trattato di Maastricht che era una versione un po' più debole della stessa cosa. Cioè, che questa moneta comune fosse per sua natura disegnata in funzione pro-Germania o ad uso e consumo della Germania, lo si sapeva dall'inizio. Cioè, non è che sia una cosa che abbiamo scoperto adesso. Quindi lei dice, dopo la crisi, quello che è capitato era, tra virgolette, già scritto tra le righe, magari in maniera non così dura, non così come il fiscal compact, non con una pressione forte solo sull'austerity e mai sugli investimenti, ma era già tra le righe, era già, insomma, in fire, era già nel trattato. Assolutamente. Cioè, vediamo, il trattato di Maastricht richiedeva che le nazioni entrassero nella moneta comune se avevano un debito su PIL inferiore al 60%. Poi dopo vengono fatte delle eccezioni su pressioni politiche, eccetera, eccetera, però la concezione originaria era assolutamente questa. E il buon Rudi Dornbusch, molto compianto, quando fu creato l'euro, dice: beh, è evidente che ci sono dei meccanismi di protezione del disavanzo, eccetera, eccetera, non c'è nessun meccanismo in caso di aumento della disoccupazione. Quindi chiaramente l'euro è nato con una certa prospettiva. Su questo dobbiamo riconoscere e accettarlo. Quindi, ecco, dopo il traffico, dopo il meteo, mi scusi, le chiederò, ma allora non basterebbe introdurre dei meccanismi, diciamo, correttivi, cioè riformulare il trattato di Maastricht e dire, guardate, chiaramente non ha funzionato in fase di crisi, chiaramente tutto il trattato è basato sul fatto di mantenere i conti pubblici in ordine, quindi è recessivo quando tu vai in crisi economica, mondiale, quando dovresti invece aumentare gli investimenti pubblici per vedere se trascinano un po' di investimenti privati. E quindi, essendo già chiaro, già scritto che quella sacrificabile era la disoccupazione, così è avvenuto. La domanda che le faccio io, la risposta dopo il meteo, ma allora non basterebbe rimodificare in chiave più crescita, più, diciamo, welfare, il trattato di Maastricht senza iniziare un processo di cui poi vorrei capire gli esiti, secondo lei, di uscita dall'euro? 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti. Allora, c'è qualcuno che continua a scrivere, ma lei non vuole ammettere di aver torto, bisogna anche accettare, si aspettava che Zingale se le desse ragione. No, guardate, io la penso, mi sembra abbastanza chiaro come la pensi io sull'euro, ma avendo letto l'articolo di Zingale di domenica non mi aspettavo assolutamente che fosse così un euro fan e un euro supporter, e sto facendo delle domande da cui si intuisce la mia preoccupazione sulla leggerezza, non di Zingales, ma della politica, quando si parla dell'uscita dall'euro. È una preoccupazione legittima, sono anch'io un cittadino, pago le tasse e ho l'euro nel portafoglio. Allora, professor Zingales, perché non pensare a dei correttivi anche importanti prima di buttare via, come mi scrivono alcuni, bambino con l'acqua sporca, altri citano gli euro bond, non si è mai voluto avere delle obbligazioni di carattere europeo per fare gli investimenti infrastrutturali, fisici e digitali, cioè prima di arrivare a un percorso di uscita? Ma io sono d'accordissimo che ci possono essere delle strade molto migliori in cui si rimane nell'euro e si cambia drammaticamente l'euro, però sono anche cosciente che bisogna essere almeno in due per farlo, è come in un matrimonio, non posso dire c'è un modo per essere felice, basta che lei faccia questo, questo e questo. Se lei non fa questo, questo e questo, il matrimonio non è felice. Quindi lo stesso è con la Germania. Noi sappiamo che la Germania non avrà mai gli eurobond, almeno finché Angela Merkel è viva, perché ha detto over my dead body, quindi su questo è un dato di fatto. La seconda cosa che secondo me è importante è: la Germania è disponibile a dei meccanismi di redistribuzione fiscale tipo assicurazione contro la disoccupazione? L'impressione è che Angela Merkel sia contraria anche a questo. Non so Martin Schulz come sia, magari con Martin Schulz c'è una possibilità di una negoziazione, però io sarei molto contento se il risultato di questo dibattito non fosse sì o no, ma sì a queste condizioni e no a queste altre condizioni, o sì a tutte le condizioni o no a tutte le condizioni, però secondo me la cosa più ragionevole è sì a certe condizioni, però poi queste condizioni ci sono oppure no? Certo. Ci sono, e soprattutto c'è una volontà politica di portarle avanti? Sì, guardi, Zingale, bisogna riconoscere che il ministro Padoan ha fatto una proposta di una assicurazione contro la disoccupazione a livello europeo, anche disegnata bene, in maniera intelligente, però quanto è stata supportata politicamente? Cioè, noi abbiamo visto che il grosso dibattito che l'Italia ha fatto in Europa è stato su qualche decimale di flessibilità. E non si può fare troppe battaglie contemporanee, quindi la battaglia prima deve essere su qualche decimale di flessibilità o deve essere su un cambiamento radicale dell'euro? E poi sappiamo che alle trattative uno deve andare con un'alternativa. Se l'alternativa è che non abbiamo alternativa, allora dobbiamo rassegnarci a un dominio tedesco. Benissimo, l'accettiamo perché siamo in una situazione da cui non si può uscire. Ok, benissimo. E qui vengo alla domanda finale. Lei vede un'alternativa, ossia sono più i vantaggi, perché l'alternativa esiste se ha qualche vantaggio più degli svantaggi, se no non è l'alternativa, è una soluzione peggiore del male, un rimedio peggiore del male. Lei nel medio termine che citava vede anche dei vantaggi nell'uscita? Sappiamo che le posizioni sul breve sono: chi è a favore dell'uscita dice torneremo a avere la sovranità monetaria, potremo svalutare, esportare di più, dare più potere d'acquisto ai cittadini, non avremo la regola di Maastricht e quant'altro. E chi vede solo o è più preoccupato degli svantaggi, come il sottoscritto l'ho dichiarato più volte, dice attenzione, avremo i tassi di interesse che schizzeranno, perché toccherà avremo intanto un aumento del costo del debito pubblico denominato in euro, quello in mano agli stranieri, tassi di interesse che aumenteranno, imbarcheremo inflazione e l'export che andrà meglio, ma non è il problema di questo paese, perché l'unica cosa che ha tenuto in questi anni è l'export del nostro paese, quindi non risolveremo i problemi interni, ma avremo una situazione tra l'Argentina e la Grecia. La sua posizione, Zingales? Non tanto nel breve, ma a questo punto nel lungo. Cioè, qui il breve ho cercato di riassumerlo. Prego. Io vorrei fare la conclusione alla fine del dibattito. Il dibattito è quando uno è aperto a vedere le posizioni altrui. Quindi non voglio precostituire dando la mia opinione finale. Secondo me quello che è importante capire da questo dibattito è quali sono le ipotesi economiche e quali sono le ipotesi politiche. Perché molto spesso si confondono le due cose. Molto della decisione su è positivo o negativo avere un'indipendenza monetaria è legata a come noi percepiamo il nostro paese. Cioè, molte delle persone, forse tutte, quelle che dicono che noi non possiamo avere un'indipendenza monetaria è perché hanno una visione, io direi quasi genetica, che gli italiani siano incapaci di gestirsi politicamente. Questo è possibile, non sto dicendo che sia sbagliato, però vorrei che venisse chiaro qual è una questione politica. Questa è una visione politica, non è che sia una visione economica. Se noi pensiamo che gli italiani siano incapaci di gestirsi o incapaci di gestire una banca centrale, poi è ironico perché oggi chi gestisce la Banca Centrale Europea è un italiano, quindi sicuramente la capacità tecnica esiste. In qualche modo noi stiamo dicendo che se la BCE viene spostata da Francoforte a Roma, improvvisamente crolla. Sarà anche così, sono aperto a capire perché, però questo non mi sembra una questione economica, è una questione politica. Quindi l'obiettivo, lo ricordo a chi scrive, è porre il tema dell'euro squisitamente da un profilo economico e non lasciarlo, da dove eravamo partiti, solo al dibattito politico, che giustamente, non faccio la mezza vergine, la demi vierge, giustamente porta acqua al suo mulino sotto elezioni e va su temi magari più di pancia che di ragione. Non c'è nulla di strano in questo. Quando è che potrò riaverla? E lei mi dirà: beh, ho capito che sono più gli svantaggi nel medio termine, più i vantaggi nel medio e lungo termine, al di là dello scossone, diciamo, dei primi mesi, Zingales. Dunque, il dibattito dovrebbe avere 2 settimane circa per ogni tema, quindi dopo le prime 2 settimane cercherò di tirare le conclusioni su il primo tema, che è nel lungo periodo, e poi progressivamente sugli altri. Questo è l'obiettivo. Allora, potremmo sentirci fra 2 settimane, vediamo anche, lo dico a giovamento degli ascoltatori, di chi magari non riesce a leggere il Sole 24 Ore, ovvio che io mi auguri che tutti lo leggano e non ci sia bisogno di ribadire i concetti, però per fare un primo punto sulla parte del medio termine, il medio lungo termine, poi immagino che verranno sviluppati anche gli altri aspetti, perché è vero che il medio lungo termine è quello in un paese serio più importante, è ovvio che però se soffri parecchio nel breve, politicamente ne devi anche tener conto da questo punto di vista. Quindi ridò appuntamento al professor Luigi Zingales indicativamente fra un paio di settimane. Grazie ancora, in collegamento con noi da Chicago. Andiamo sul traffico e poi torniamo sulla cronaca stretta, strettissima, quindi vicenda Vivendi Telecom e Vivendi Mediaset. 3-49-238-6666 per sms e whatsapp. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Allora Pindaro, aiutaci tu, perché passare dalle prospettive nel medio-lungo termine dell'euro alla vicenda Mediaset, Vivendi Mediaset e Vivendi Telecom non è agevolissimo. Che cosa è successo? La Gcom ha dato torto a Vivendi, dice deve scendere in Mediaset o in Telecom, non può mantenere il riferimento, essere l'azionista di maggioranza relativa in Telecom dove ha quasi il 24% ed essere e avere la minoranza di blocco qua il 29,9% di diritti di voto in Mediaset. Questo sulla base della legge Gasparri, su questa parte della legge Gasparri. Vivendi ha detto che si riserva ricorsi al TAR dell'Unione Europea, ma che cosa e come se la complica la vicenda? Lo chiedo a Antonello Olivieri del Sole 24 Ore, che tra l'altro si sta dirigendo proprio a Cologno Monzese, dove c'è la presentazione, se ho ben capito, dei dati annuali del gruppo Mediaset. Buonasera Antonella. Buonasera. Allora, sì, non ho mai capito perché in questo paese nel 2017 ancora i telefoni prendano come nel 97. Allora Antonella, che cosa cambia concretamente la decisione della Gcom sulle prospettive di Vivendi? Perché vista così sembrerebbe quasi che Vivendi si fosse data la zappa sui piedi. Aveva una partecipazione di maggioranza relativa in Telecom, adesso è obbligata o a scendere in quella o a scendere in Mediaset. Sicuramente si complica la vita, e una priorità è quella di non scoprire le carte tra 2 mesi, come ha chiesto la Gcom, di dare un piano di che cosa hanno intenzione di fare se scendere nell'uno o nell'altra, che poi cosa che dovrà essere realizzata nell'arco dei prossimi 12 mesi. A questo punto, dei prossimi 10 mesi, e a questo punto è evidente che ci sarà un ricorso al TAR per chiedere una sospensiva d'urgenza, almeno sulla parte che riguarda la necessità di dover scoprire le carte tra 2 mesi. È abbastanza evidente però che Vivendi terrà Telecom dove non ha antagonisti, e invece vedrà come sistemare la partita Mediaset. Però vista così, noi che la vicenda l'abbiamo seguita fin dall'inizio, adesso non so, perché Bolloré ha fama di essere un uomo molto lungimirante e scaltro, una volpe, ma vista così sembra, ripeto, quasi un passo falso, perché tutta questa vicenda poi non ti ha portato al controllo di Mediaset, perché dovresti lanciare l'OPA. Hai irrigidito i rapporti ulteriormente con Fininvest e non mi sembra che si sia trovato nessun punto di contatto. Ha fatto aprire la Gcom, su richiesta appunto di Fininvest, il faro, e ti dice a questo punto o scendi in una o scendi nell'altra. cioè la campagna d'Italia di Bolloré dove va a parare? Perché se tutta l'operazione deve portare a mantenere la quota in Telecom e una quota minore in Mediaset, non si capisce cosa sia servita. No, francamente non mi sembra che i francesi siano mossi benissimo. Sia all'inizio, quando hanno firmato il contratto su Premium, senza andare troppo a fondo sulla due diligence, evidentemente. Poi, certo, quando ci hanno ripensato, si sono rimangiati una firma su un contratto che era già vincolante, e dopodiché, quando hanno cercato di portarlo a mano, salendo alla soglia dell'OPA, senza considerare che ovviamente l'azionista di maggioranza si sarebbe difeso. Beh, insomma, sappiamo che l'arroganza sta ai francesi come il rigore ai tedeschi e delle volte pressapochismo agli italiani, non mi sorprende, ma c'è stato un eccesso di arroganza secondo te in Bolloré nel dire vabbè, adesso io vado giù, gli compro, arrivo al livello appena sotto l'OPA e a questo punto li obbligo a trattare? Forse sì, c'è, diciamo, una sottovalutazione di qual è il contesto italiano. Questo sicuramente, anche delle regole italiane, cioè che ci fosse la legge Gaspar, che adesso si chiama TUSMAR, era noto, e bisognava anche considerare quali erano le implicazioni. Portare una mano per un accordo non è possibile, perché non sarebbe più un accordo se forzi la controparte ad aderire alle tue ragioni, quindi... E quindi resta sullo sfondo il ragionamento o l'analisi del perché Bolloré abbia fatto così all'improvviso, perché tra l'altro l'accusa fatta da Fininvest l'esposto alla Consob è che ha rotto le trattative a giugno mentre andava a rastrellare, cioè per abbassare il valore del titolo medio, se poterlo rastrellare meglio. Non si capisce alla fine che cosa entri in cassa Bolloré. Sembrerebbe quasi tra l'arrogante e lo sprovveduto nell'intera vicenda. Sprovveduto intendo dire che non ha conoscenza di tutti i dettagli, ma può essere che una figura come quella di Bolloré abbia commesso, diciamo così, una leggerezza tale, secondo te? Beh, può essere, non è il primo passo falso che fa in Italia. Se ti ricordi la vicenda Premafin, non era andata bene nemmeno quello. Ma cos'è, un problema di consulenza, insomma, perché che nessuno gli abbia fatto notare che in Italia esiste la legge Gasparri, ti pigliavi qualunque studio legale di sto paese ed era la prima cosa che facevano notare, no? Forse il punto è sottovalutare che sei comunque uno straniero in Italia. L'Italia, da un certo punto di vista, è sempre molto ospitale, no? Molto più della Francia o della Germania, e forse il fatto di aver investito in Italia da tempo, prima in Mediobanca in proprio, poi in Telecom con Vivendi, e poi essere andati avanti in Mediaset, lo faceva sentire un po' più sicuro di non essere considerato così straniero. Solo che, avendo toccato dei settori un po' sensibili, come sono i media e le TLC, insomma, qualche reazione c'è anche in Italia. Senti, ma per concludere, Antonella, ma può essere che il fatto di avere Donè alle generali, Moustier a Unicredit, cioè tutto insieme di manager francesi, abbia fatto credere a Bolloré di poter creare, insomma, una specie di, non dico cordata perché non si sono mai parlati da quello che sappiamo, ma così un principio di gestione transalpina di grandi gruppi italiani? Sicuramente, come dicevo, l'Italia è molto ospitale e non credo che in Europa si debba fare tante distinzioni sulle nazionalità, però un discorso di reciprocità forse ci sarebbe. Vabbè, quindi a questo punto tu immagini che nell'arco dei prossimi due mesi Vivendi sostanzialmente chiederà una sospensiva d'urgenza della decisione dell'AGCOM alla fine della fiera per non svelare le sue carte. Sì, anche perché la partita è particolarmente complessa e Bolloré non può perdere su tutti i fronti, anche perché cominciano ad esserci un po' di malumori anche a casa sua, cioè di oggi la notizia che un proxy advisor raccomanda ai fondi di non confermarlo nel consiglio di Vivendi, che è, diciamo, un assurdo da un certo punto di vista, perché lui è anche l'azionista principale che avrà adesso con il voto maggiorato quasi il 30% dei diritti di voto. Allora staremo a vedere se e quale sarà la mossa a questo punto di Vivendi. Grazie intanto a Antonio Olivieri, che sta andando appunto, mi dispiace per la qualità dell'audio non è cessa, ma si stava recando a Colonia Monzese appunto per la presentazione dei piani, dei conti Mediaset. Adesso andiamo sul GR24, poi la borsa e poi le varie audizioni sul DEF di oggi, 349, una soprattutto, quella del Ministro dell'Economia. Oddio, c'è stata anche la Banca d'Italia con il Vice Direttore Signorini. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Tutti convocati live nel Santa Santorum dell'Etere, Radio City. Io sono Carlo Genta e con Pierluigi Pardo vi aspetto venerdì 21 aprile, ovviamente dalle 14 alle 15.30, convocati live dal Pavilion Unicredit in piazza Gaia Aulenti a Milano. Faremo insieme una puntata speciale di Tutti Convocati, con tanti ospiti sul palco all'interno della grande manifestazione dedicata al nostro mondo, quello della radio. Vi aspetto. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, no, no, no, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive! E schiene dritte! Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8.20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Focus Economia. Yeah, 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, andiamo sulla borsa. Qualcuno mi fa notare che Fininvest ha incassato parecchio dalla cessione del Milan. Sì, sono 540 milioni, perché su 830 milioni 90 vanno a rimborso spese e 220 sono i debiti del Milan. 540 dovrebbero entrare, anzi sono entrati nelle casse di Fininvest. Lo dico perché nel frattempo è uscito anche il bilancio di Mediaset e non è bello, nel senso che ha registrato la perdita più alta della sua storia, se vedo bene, nel senso peggior risultato di sempre, sì. Mediaset ha perso nel 2016 294 milioni di euro. La perdita è attribuibile alla vicenda Premium, ci sono 340 milioni di perdita da lì. E questo dato è peggiore anche di quello del 2012, quando Mediaset chiuse con 287 milioni di rosso, ma soprattutto per la svalutazione sulla crisi finanziaria. L'anno prima, cioè 2015, Mediaset aveva segnato un utile di 4 milioni, nel 2014 l'utile era stato di 23 milioni, nel 2013 di 9 milioni, quindi è un dato oggettivamente molto pesante, attribuibile per larghissima parte alla vicenda proprio Premium. La borsa di oggi, molto forti i bancari, Unicredit più 6%, Biperbanca più 5,40%, Banco BPM più 4%, Intesa San Paolo più 3,60%, Ubibanca più 3,20%, Unipol più 3%, Mediobanca più 2,60%, come sempre li facciamo con Radio Cori, Sole 24 ore. Faccio notare che complessivamente l'indice ha guadagnato alla fine quasi il 2%, mentre Parigi più 0,30%, Francoforte più 0,1%, Londra meno 0,46%, e quindi insomma Milano è nettamente la migliore. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Le banche e in particolare Unicredit. Sì, allora oggi le banche hanno mostrato un buon recupero. L'andamento della borsa di Milano, come segnalavi anche tu, ha fatto registrare un incremento di quasi il 2%, e altrettanto bene ha fatto anche la borsa di Madrid, più 1%, e sono le due borse in Europa dove il settore bancario è più presente. Non ci sono ragioni specifiche, se non alcuni report che segnalano un miglioramento della situazione bancaria nell'area euro. Per quello che riguarda l'Italia, alcuni oggi ci segnalavano anche il report dell'Associazione Bancaria Italiana, dell'ABI, che ha mostrato un incremento sia per quello che riguarda i prestiti, che a marzo sono cresciuti, sia per quanto riguarda i crediti in sofferenza, che hanno mostrato una seppur lieve contrazione, per cui un segno che lentamente anche per il settore bancario italiano sta tornando la normalità. Unicredit è stato il titolo migliore con questo rialzo superiore al 6%, ha fatto bene anche Biper più 5,38%, che secondo quanto ha riportato oggi il Sole 24 Ore potrebbe aumentare la sua quota in Arca SGR. Risparmio gestito è uno dei settori su cui puntano molto le banche per far crescere i propri ricavi, anche perché ha, come dire, un rischio molto ridotto rispetto a quello del credito, e la notizia è stata ben accolta dal mercato. Biper appunto più 5,38%, anche la Popolare di Sondrio, che dovrebbe affiancare Biper in questa crescita in Arca SGR, ha chiuso a più 2,16%. Ancora su Fiat invece penso che pesino i dati buoni sulle immatricolazioni auto in Europa. Il mercato continua a crescere, quasi l'11% di immatricolazioni in più a marzo. Nei primi tre mesi ha già fatto più 8% e tutti i brand di Fiat Chrysler sono in crescita. L'Alfa Romeo ha fatto più 45,7%, 500 e la Panda sono le city car più vendute. Tra l'altro ha segnato anche un 36,8% di immatricolazione in aumento in Germania. Alfa Romeo dicevo più 45, Fiat più 17, Lancia più 15, Jeep più 8,5%. Sì, per quello che riguarda Fiat si tratta di dati molto positivi, sono la crescita è quasi doppia rispetto a quello del mercato nel suo complesso, ed è una notizia positiva anche perché i conti trimestrali di Fiat Chrysler non dovrebbero essere particolarmente positivi, lo ha ammesso lo stesso management nei giorni scorsi. Pagheranno probabilmente il rallentamento che si sta registrando negli Stati Uniti e nel Nord America, ma oggi gli analisti, commentando un po' i dati dell'Europa, sottolineavano come a fronte di questi dati sulle immatricolazioni in Europa potrebbero esserci delle sorprese positive proprio nel vecchio continente, e per cui il titolo ha reagito bene con un più 4,38%. Mediaset, dicevamo dei dati, però sono usciti a borsa chiusa. Devo dire che il mercato si è mosso in maniera, non dico strana, però insomma abbastanza netta sui due titoli, perché Mediaset, ripeto, ha dati ancora non diffusi, ma Telecom è stata premiata con l'1,41%. Per quello che riguarda invece il titolo Mediaset, è sembrato per buona parte della giornata, poi ha fatto più 1,60, che il mercato fosse più orientato a comprare Telecom che Mediaset. Sì, c'è stata una fiammata finale, diciamo, dalle 5:15 in poi, perché per tutta la giornata sia Mediaset che Telecom erano stati in fondo al listino e perdevano, sono arrivati a perdere anche il 2%. In particolare perdeva Mediaset perché gli operatori scommettono che quando e se Vivendi dovrà scegliere fra restare in Mediaset o in Telecom, sceglierà Telecom e lascerà da parte Mediaset, cederà le quote superiori al 10% per rispettare le indicazioni delle autorità arrivate ieri. Nel finale invece c'è stata questa fiammata che ha consentito ai due titoli di recuperare, in particolare ha recuperato Mediaset, che appunto ha chiuso a più 1,61% quando ancora comunque non si conoscevano anche i conti e l'entità della perdita sul 2016. Andiamo ad altri titoli, vicenda Atlantia Abertis. Sì, oggi si sono mosse al contrario, Atlantia ha guadagnato più 0,56, mentre Abertis ha perso circa il 3% la borsa di Madrid. Non è ancora chiaro come Atlantia potrebbe eventualmente muoversi per acquistare Abertis. Le indicazioni e gli studi che c'erano oggi indicavano che probabilmente sarà un'offerta in parte carta contro carta con uno scambio azionario, in parte con una componente cash. Ma è tutto ancora molto da costruire su questa operazione. Ieri Atlantia era stato uno dei titoli peggiori, aveva perso oltre il 3%, oggi ha recuperato leggermente, più 0,56%, anche perché comunque l'operazione sembra piacere al mercato se verrà fatta al giusto prezzo. Cioè avere una prospettiva industriale, questo insomma poi vuol dire. Eni ferma, Ferragamo meno 1,46%, Atlantia poi come tu ricordavi più 0,56%, Fincantieri, visto che poi ce ne occupiamo per la vicenda oggi, Bono è andato a presentare i sindacati e i dipendenti di Saint-Nazaire, delle STX, le prospettive industriali, Fincantieri. Sì, Fincantieri ha guadagnato il 2,56%, il mercato resta positivo su questa operazione e anche oggi Bono è stato molto attento a promuovere l'operazione spiegando appunto che non sarà un'operazione coloniale, che verrà mantenuta l'indipendenza dei cantieri. Ormai siamo veramente agli sgoccioli per la chiusura dell'operazione. Sì, scusami, ti ho interrotto Guido. No, e quindi il mercato comunque apprezza, il titolo è anche tornato sopra il prezzo di IPO, quindi di collocamento, che era 0,78, oggi è chiuso a 0,8 euro. Allora, migliori e peggiori, Sintesi più 28%, poi Sole 24 Ore più 21,4% dopo alcune sedute e di calo. Ci sono notizie su Sole 24 Ore? No, nessuna, è un po' di ricopertura dopo alcune sedute di calo. Ieri aveva perso il 6%, alcune sedute non erano state ottime, per cui oggi sì, ha detto che è flottante anche poco, sì. Se lo dico perché si muove, questo vuol dire che si muove il titolo come quelli più sottili, si muove facilmente, certo che 21,4% spicca, Stefanel più 19%, Jequity più 19,20%, poi la Juventus, il mercato scommette già da ieri su un buon esito della partita di questa sera, più 12,7%. Fronte opposto invece, Nova Re meno 8,40%, Dimei Group meno 4,70%, Smre meno 4,80% e Molmed meno 3,30%. Andiamo, ringrazio Guido Maurino, andiamo sul traffico e poi ci spostiamo appunto a Saint-Nazaire, dove oggi come ultimo, uno degli ultimi atti è stato illustrato il piano industriale di Fincantieri vedo che c'è un tweet di Salvini: fuori dall'euro l'Italia farebbe la fine di Grecia. Barisoni dice che fuori dall'euro l'Italia farebbe la fine dell'Argentina e della Grecia, grazie all'euro siamo più tutti ricchi e felici. Salvini, con massimo rispetto, ha ascoltato poco dell'intervista con Zingales, erano domande a Zingales, ma comunque noi andremo avanti con il dibattito. Intanto traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Focus Economia. Dicevamo, spostiamoci a Saint-Nazaire in Francia, dove ci sono i famosi cantieri dell'STX, l'operazione più grossa porta a termine da Fincantieri, perché dopo le resistenze del governo francese, l'abbiamo raccontata, alla fine ha ceduto, nel senso che mantiene il governo francese la minoranza di blocco, il 33% della società, ha ottenuto che Fincantieri non abbia il 51% ma il 48%, poi c'è la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste che avrà il 6-7%, importantissima l'operazione, lo dico perché Fincantieri ha 20 cantieri in 4 continenti, 19.000 dipendenti, 40% in Italia, e ha avuto un risultato positivo per 14 milioni di euro con ricavi saliti a 4 miliardi e mezzo quasi, ha un portafoglio ordini acquisiti già per 6 miliardi e mezzo di euro, ma i cantieri di Saint-Nazaire, dove lavorano 7.000 addetti, hanno fatturato un poco meno di 1 miliardo di euro nel 2015, ma soprattutto hanno la capacità di costruire navi immense. Faccio notare che la nave classe Oasis della Royal Caribbean Cruises. E perché? Perché hanno un bacino di carenaggio, se ben capito, lungo quasi 1 chilometro. E appunto si possono fare navi da 220.000 tonnellate di stazza, mentre a Monfalcone, che è il bacino di carenaggio principale di Fincantieri, il limite è 180.000. Il problema della delicatezza di STX è che costruisce anche navi militari, le porta elicotteri d'assalto, i sottomarini nucleari e le navi offshore. Comunque Bono oggi è andato, il numero uno di Fincantieri, è andato appunto a Saint-Nazaire. immagino, a rassicurare sindacati e dipendenti. È così, Celestina Dominelli del Sole 24 Ore? Sì, buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori. Sì, l'incontro era atteso, è anche necessario, perché questo confronto che Bono ha aperto oggi con i sindacati, era la sua prima volta a San Nazar, servirà sostanzialmente anche per avviare la procedura di consultazione e informazione che è prevista dalle leggi francesi, dalle Code du Travail, che sostanzialmente comporta la possibilità per il comitato d'impresa, che è questo organo, diciamo, sindacale interno all'azienda, di esprimere un parere non vincolante sull'operazione. Quindi questo primo, diciamo, momento di approfondimento tra il CEO di Fincantieri e i sindacati francesi serviva sostanzialmente a illustrare i piani del gruppo triestino per ST Frax, dove appunto l'azienda italiana ha già promesso di confermare gli investimenti programmati, che sono 100 milioni in 3 anni, ed è andato ovviamente anche per fornire le necessarie rassicurazioni sia sui livelli occupazionali e sia poi quello sul futuro, insomma, del cantiere. A questo punto, diciamo, con questo atto previsto appunto dalla legge francese, come tu ricordavi, la vicenda non dico che si chiuda, ma ormai è arrivata agli ultimi sgoccioli, no? Sì, sostanzialmente sì, questa è sicuramente una delle tappe finali. Ricordiamo che c'è contemporaneamente anche una procedura aperta davanti alla Corte Distrettuale di Seul, che è il tribunale che sta gestendo il fallimento della holding dalla quale dipende appunto questo braccio francese appena rilevato da Fincantieri. Entro fine mese il gruppo triestino dovrebbe chiudere anche quella parte, cioè dovrebbe perfezionare l'atto di vendita, e quindi a quel punto l'operazione sarebbe completa nelle sue parti. Poi, come hanno ricordato nei giorni scorsi sia Bono sia anche il ministro dell'industria francese Christophe Siat, per arrivare al closing dell'operazione, quindi diciamo alla chiusura definitiva, sarà ovviamente necessario l'espressione del parere sindacale, quello di cui parlavamo poc'anzi, e quindi il closing vero e proprio è previsto più o meno entro luglio. Quindi a luglio, cioè, la parte definitiva. Grazie anche grazie Celestina Dominelli del Sole 24 Ore. Ultimo tema che abbiamo tenuto per ultimo, ma in realtà se ne sono occupati anche i nostri GR24, mi riferisco ai dati di Istat, dell'Istat di oggi. Purtroppo non c'è novità, perché lo dico purtroppo? Perché sono dati ancora sulla disoccupazione. Per l'Istat ci fa sapere che per chi ha meno di 35 anni è sempre più difficile trovare un posto di lavoro, il mercato è ancora sfavorevole per i giovani, ce ne eravamo accorti anche da altri dati. E poi aggiunge direttore del Dipartimento Statistico dell'Istat, Roberto Monducci, in audizione sul DEF davanti alle commissioni bilancio del Parlamento, e dice quasi il 12% degli italiani vive in famiglie con disagi economici. Nonostante alcuni miglioramenti economici, la quota non è scesa, quindi di fatto non ha aggredito il problema il leggero miglioramento dell'economia. E poi avverte: attenzione sul DEF, serve uno scatto dell'economia per centrare gli obiettivi di crescita del PIL previsti dal governo nel 2017, più 1,1%, su cui si basa poi e si baserà tutta, si basa il DEF e anche la manovra finanziaria. Sentiamo appunto Monducci. Il governo ha messo in campo una serie di provvedimenti importantissimi per quanto riguarda la lotta alla povertà. Nonostante il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie, nel 2016 non si è osservata una riduzione dell'indicatore di grave deprimazione materiale. In pratica si tratta della quota di persone che sperimentano sintomi di disagio di vario tipo. Secondo i dati provvisori, che sto citando ora e non sono ancora stati diffusi, questa quota si attesta all'11,9%, è stabile rispetto al 2015. Quindi migliora il mercato del lavoro, crescita economica, migliora anche la disuguaglianza, ma rimane stabile questa quota di persone che percepiscono gravi difficoltà. In particolare, nell'ultimo anno, questo indice peggiora soprattutto per le persone anziane. E su questo, in audizione in commissione, anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha detto, insomma, la crescita non basta, la disoccupazione è inaccettabile. Vorrei far sentire quel passaggio di Padoan assieme a quello in cui il ministro dell'economia dice: attenzione, il calo del deficit va fatto in maniera graduale, altrimenti colpirebbe la ripresa. Sapete che chi vi parla su questo è anche più radicale, sarebbe per mantenere il deficit al 2,4%, lo spiega l'Europa, è sotto il 3%, ma andare a impiccarci l'anno prossimo per un'altra riduzione di 1,2 punti di deficit, che sono circa 17-18 miliardi che potrebbero essere usati per operazioni di carattere fiscale, secondo me non ha molto senso. Comunque sentiamo Padoan sia sulla disoccupazione che sulla riduzione del deficit come graduale per non colpire quel poco di ripresa che c'è, poco lo aggiungo io. Tra il 2014 e il 2017 la crescita si irrobustisce, la disoccupazione scende, il deficit cala, il debito rispetto al prodotto si è stabilizzato e va verso la diminuzione per la prima volta dopo 9 anni, pur in un contesto di prezzi a crescita zero o negativa. Il livello di crescita conseguito non ci entusiasma, non ci possiamo dire soddisfatti. Dal punto più grave della crisi a oggi il numero di occupati è aumentato di 734.000 unità. Più della metà di questi lavoratori ha trovato un'occupazione a tempo indeterminato, ma il tasso di disoccupazione resta inaccettabilmente elevato tra i più giovani. Occorre coniugare una politica di bilancio orientata alla crescita tramite la riduzione del carico fiscale e il sostegno agli investimenti con un programma di riforme strutturali. Ciò deve essere perseguito in un contesto di debito che deve calare con decisione. Il Paese, in altre parole, deve affrontare un sentiero stretto. Domani ascolteremo anche altre dichiarazioni a partire dalla Banca d'Italia, perché poi il tema resta tutto. Intanto da Sebastiano Barisoni le auguri una buona serata, ci risentiamo appunto domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.